Ecco, sentite in bocca come invece qui la tannicità che porta la croatina dà una pienezza al gusto, una sensazione molto ricca, molto succosa. C'è questo tannino che vaga nella bocca, tra la lingua e il palato, dandovi questa sensazione appena appena graffiante, appena appena stuzzicante sulle pareti della bocca. Molto ricca, molto molto particolare, molto, molto vivace, vi dà una sensazione continuamente dinamica, come se il vino continuamente si muovesse in bocca, dando sempre delle sensazioni nuove, delle sensazioni sempre più ricche, sempre più vivaci. Un vino quindi dall'impatto forte, deciso, netto, che ha quell'esuberanza della Barbera, ma anche questa ricchezza tannica, questa ricchezza della consistenza della croatina. Si sposano e si fondono bene assieme questi due elementi con molta ricchezza, con molta vivacità e con molto carattere. Con un vino molto, molto ricco, pieno, che dà una grande soddisfazione, che dà, come dire, una sensazione di completezza, di grande eleganza e di grande ricchezza. E quindi un bravo anche ad Annibale Alziati con questo suo oltrepopavese rosso. Ultima tappa, appunto, la facciamo nelle Marche con l'azienda Aurora, appunto con questi cinque ragazzi e con il loro vino, questo Montepulciano coltivato con piante piccole, molto molto contenute, molto raccolte, che danno pochissima uva. Quindi delle uve che si concentrano, che si arricchiscono proprio perché la pianta concentra su questi pochi grappoli tutta la sua energia, tutta la sua ricchezza aromatica. Il vino poi viene maturato in piccole botti per arricchirsi, per avere un maggior colore, una maggiore intensità aromatica e per arricchirsi di quella tannicità morbida, di quella tannicità avvolgente di cui questi vini hanno bisogno, il barricadiero appunto. Il Montepulciano è un'uva estremamente interessante e ricca perché ha questo suo carattere così animale, così selvatico, che dà subito una grande sensazione di pienezza, di ricchezza, di esuberanza e di concentrazione. C'è questo profumo di cuoio, questo profumo di tabacco che lo rendono estremamente ricco, dolce, morbido, estremamente gradevole. Non stupitevi, gli aromi animali sono quelli che in qualche modo noi amiamo di più perché sono quelli che ci ricordano il calore, che ci ricordano la vicinanza dei nostri simili, ma anche degli animali, la piacevolezza a volte di entrare in una stalla e di sentire l'odore degli animali, è una cosa estremamente piacevole. Poi magari qualche snob arriccia il naso, ma invece sono sensazioni molto, molto piacevoli, molto intime, molto, molto, molto calde. Ecco, il Montepulciano è un'uva che riesce appunto a farci ricordare questi elementi, a darci un po' il senso del calore umano, del calore animale, del cuoio, della pelliccia, del pelo. E quindi un elemento davvero molto molto intimo che lega in qualche modo i nostri ricordi, le nostre memorie più intime e più personali. Sentite anche quanto è ricco e fitto il tessuto di tutti questi aromi che si mischiano, perché anche qui c'è una ricchezza fruttata molto, molto, molto, molto matura. Tende quasi a essere così dolce, così matura, che sfiora appena appena la confettura di ciliegie, questo elemento estremamente dolce, ricco e maturo. In bocca sentite la dolcezza, la freschezza del frutto, la sua succosità come subito si dà generosamente con queste note dolci, ma anche con questa nota bella speziata che ravviva molto la sensazione gustativa. E questo tannino che in bocca vaga continuamente, continua a solleticare la nostra bocca, la nostra lingua, e continua a farci sentire il gusto, continua a ripetersi questa sensazione. Ogni volta che noi deglutiamo pare che sia l'ultimo, e invece quando la lingua ritorna lontana dal palato, di nuovo sentiamo la sensazione gustativa. E quindi un elemento che si ripete, come se appunto un'onda che non finisce. Ecco, dopo la prima ondata arriva la seconda, arriva la terza. Una sensazione molto piacevole proprio perché è così ripetuta, così allungata. Un elemento estremamente ricco di ricchezza, di generosità e di immediatezza, come appunto questa uva. Quindi questa sensazione così intima, personale, davvero di grande forza, di grande eleganza, di grande vigore. Proprio questo elemento che lega questa terra d'Abruzzo, dalle Marche, sono, come dire, terre estremamente generose, estremamente ricche e un po' combattute tra la vicinanza del mare, quindi di un clima abbastanza caldo, mediterraneo, diciamo così, ma anche c'è alle spalle questa vicinanza delle montagne, del Gran Sasso, dell'Appennino, che in qualche modo porta freschezza, che è quello che dà contrasto con le temperature tra il giorno e la notte, che quindi riesce a far arricchire queste uve di sensazioni profumate, di aromi, di concentrazione, di sapori molto, molto ricchi, molto densi, molto continui, molto, molto persistenti. E quindi un connubio tra la vite, l'ambiente e l'uomo davvero, davvero straordinario. E questi cinque ragazzi ci sono riusciti perfettamente. Quindi bravissimi anche a loro. Ecco, vorrei che voi faceste un applauso quindi a questi quattro vini, a questi quattro vignaioli. E quindi la loro capacità di farci questo racconto. Come ultimo elemento vogliamo quindi proprio festeggiare questo punto. Adesso abbiamo in qualche modo ricordato proprio la figura, il ruolo che Veronelli ha avuto nella viticoltura italiana e nel suo stretto rapporto con questi viticoltori, con una bottiglia un po' particolare, con una grande bottiglia, con un grande formato che è inevitabilmente, come dire, un elemento che dà subito allegria, che dà subito calore, perché vedersi un bel doppio magnum come questo è una, come dire, un'esperienza molto molto piacevole, che rallegra il cuore. Questo è il Gaggiarone, ma di un'annata un 2003, quindi un vino un pochettino più vecchio, di un'annata molto molto calda, molto asciutta, e che quindi ha dato questo vino estremamente ricco, estremamente concentrato. Ecco, con questo ultimo bicchiere vogliamo proprio alzare tutti assieme il nostro calice e brindare a Luigi Veronelli. Bisogna chiamare Dennis per questo. Sì, questi. Questo è duro, eh. Questo è duro. Fa vedere, fai così, vedo. Vai, fai tu che. Soldo questo qui, eh? Non...